25 gennaio 415. Nello spiazzo verde di Via del Sole si è riunita una folla di 200-300 persone. È diventato ormai una consuetudine darsi appuntamento almeno una volta alla settimana dinanzi al nostro centro studi per ascoltare Ipazia o qualche altro nostro compagno. La gente che mi attorna è in gran parte simpatizzante nel movimento degli Elleni, ma ci sono anche parecchi cristiani. Accanto a me c'è il poeta Pallada che sta intrattenendo la folla mentre siamo in attesa di Ipazia. Lei sta concludendo una conferenza di astronomia con due studiosi giunti da Antiochia, dove io e Ipazia abbiamo soggiornato per quasi un mese. La mia maestra ha presieduto una serie di incontri a cui hanno partecipato studiosi provenienti anche da Efeso e da Costantinopoli, durante i quali ha colto l'occasione per rilanciare il movimento culturale degli Elleni, un sogno che lei continua a coltivare. È la decima ora. Sta già imbrunendo. In cielo c'è una strana foschia grigio-cenere e dalle viuzze laterali soffia un vento gelido. Pallada sta dando fondo a tutta la sua inesauribile carica di simpatia mentre con i suoi occhi perennemente arrossati domina la scena. È alto, grasso e con un faccione simpatico, capelli grigi, lunghi e disordinati, barba bianchiccia. Ma la sua voce incanta. È sonora, musicale, in contrasto con tutta la sua figura. Fratelli alessandrini, come si fa a non credere al destino? Io sono l'esempio vivente che tutto ciò che accade è stato scritto prima della nostra nascita, su un gran rotolo di papiro. Altrimenti non si spiegherebbe come uomini di poco valore, uomini che voi conoscete benissimo, siano belli, in ottimo stato di salute, ricchi, potenti, insolenti e con mogli bellissime, incantevoli e affascinanti. E questo è un vero mistero che nessuno è mai riuscito a chiarire. Perché noi uomini poveri, perché noi ci ritroviamo sempre accanto alle donne più brutte della città, me lo sapete spiegare? La faccia del poeta è talmente triste che strappa risate genuine alla gente. Qualcuno di voi ha sicuramente incontrato mia moglie. Non potete averla dimenticata. Avete avuto il coraggio di guardarla bene in faccia? Brutta come la morte, baffi e barba, occhi assassini e carattere bisbetico. Litiga con tutti. Non riesce a sfogare tutto il veleno che produce e a casa c'è la vittima sacrificale, io. E allora, per non sentirla, afferro la cetra. E mi rifugio sull'isola del Faro, magari a pancia vuota, a creare canti e poesie sognando le belle mogli dei ricchi. E una vera espressione di amarezza appare sul faccione del poeta mentre scuote la testa, sconsolato. Prima almeno potevo riversare tutta la mia gioia di vivere nei fanciulli a cui insegnavo, ma gentaccia sobillata dai preti mi ha denunciato, accusandomi di fare propaganda di ellenismo durante il mio insegnamento. E così ho dovuto lasciare l'attività che più amavo e per cui forse ero più portato. Nei suoi occhi arrossati appaiono briciole di una dolcezza infinita. Afferra la cetra, che porta in una grande borsa tracolla, e si mette a suonare, accompagnando i suoi versi impregnati di cupa amarezza per il tramonto dei grandi ideali ellenici. Mentre sta declamando queste odi, tra la folla si fa largo un uomo accompagnato da un gruppetto di curiali. È il prefetto Augustale Oreste. Si avvicina, mi chiede della mia maestra, gli dico che a momenti si unirà a noi. Pallada in questo momento sta declamando l'epigramma in onore di Ipazia, epigramma che ormai da qualche anno è sulla bocca di ogni elleno di Alessandria. Quando ti vedo mi prostro davanti a te e alle tue parole, vedendo la casa astrale della Vergine, infatti verso il cielo è rivolto ogni tuo atto, Ipazia sacra, bellezza delle parole, astro incontaminato della sapiente cultura. E suonando la cetra invita gli astanti a ripetere con lui l'ultimo verso, astro incontaminato della sapiente cultura. Un coro dolcissimo e appassionato si leva dalla gente che ripete astro incontaminato della sapiente cultura. Nel frattempo ci hanno raggiunto Esichio, Erculiano, Valeria e Nicandro. Purtroppo Davide e Samuel la scorsa settimana sono stati espulsi da Alessandria insieme all'intera comunità giudaica da Cirillo. Un lieve brusio accompagna l'uscita dei due studiosi di Antiochia. Ipazia indossa il suo immancabile mantello nero. I capelli ribelli sono tenuti assieme da un laccio rosso. Chiede ai due studiosi se desiderano essere accompagnati alla locanda, ma essi rifiutano, vogliono presenziare. E allora Ipazia si dirige verso di me, saluta Oreste e si unisce alla folla. Oggi è il secondo anniversario della morte del nostro compagno di studi Sinesio, il vescovo di Tolemaide. Ricordarlo assieme a voi tutti sarà un modo giusto per onorarlo. E volge il capo attorno, abbracciando con uno sguardo triste la gente che la circonda. Sinesio ha vissuto gli ultimi anni della sua vita tormentato da un forte conflitto interiore. Non riusciva a giustificare la scelta di aver accettato la carica di vescovo, lui che fin da giovane aveva lottato affinché nessuno mettesse a tacere la sua libertà di pensiero. E temeva il giudizio mio e dei suoi compagni. Eppure noi tutti, e protende un braccio indicando me, Valeria, Nicandro e gli altri, noi tutti, e io in particolare, abbiamo sempre rispettato la sua scelta. Lui aveva accettato quella carica per amministrare il suo popolo perché era capace di svolgere bene il suo lavoro. Ma Ipazia è costretta a interrompersi. All'inizio di Via del Sole si ode un tramestio, un tumulto sempre più forte. Ci giriamo e, preceduto da un centinaio di parabolani, i violenti monaci chiamati dai monasteri della Nitria, arriva il vescovo e patriarca Cirillo, il quale, una volta giunto vicino a noi, fa fermare la carrozza e con un gesto della mano invita Ipazia a continuare. La mia maestra cerca i miei occhi. La gente non si è fatta spaventare dai monaci. Fissa Ipazia, vuole ascoltare lei e anche io, con un sorriso tranquillizzante, la invito a proseguire. E lei riprende dal punto in cui si era interrotta. Sinesio non si era tirato indietro davanti al dovere. Diceva sempre che un buon cristiano deve essere anche un buon cittadino, ma affermava, scriveva e voleva che i suoi pensieri e le sue lettere venissero lette pubblicamente, che nessuno potesse imporre a un altro uomo la sua fede, il suo canone di fede. Sinesio, vescovo della Chiesa, rifiutava l'idea della risurrezione, non solo in quanto era un pensiero misterioso, ma perché tutta la faccenda non lo convinceva. Trovava che la risurrezione fosse una trovata ad effetto e che non avesse a che fare con la nostra ricerca della verità, con il nostro confrontarci con la fine di questa vita. Sinesio non accettava che un altro uomo lo obbligasse a un canone di fede, non sopportava che Teofilo, Ambrogio, Agostino, Giovanni, Cirillo, e indica il vescovo alla gente, gli dicessero: io posseggo la chiave per la salvezza, il canone di fede. Solo io so interpretare le sacre scritture, tu devi credere e basta. No, diceva Sinesio, io sono disposto ad accettare solamente un canone di verità, un criterio in base al quale ci si può muovere nella vita per giungere alla conoscenza del vero e del bene. Di quel canone Sinesio si era innamorato qui, in Via del Sole, con me e i suoi compagni di studio. Era il solco tracciato dai grandi filosofi, i nostri avi. Il primo fu Talete di Mileto, che tutti noi conosciamo come matematico, come colui che riuscì a determinare l'altezza delle piramidi, come colui che preannunciò l'eclissi totale del sole del 28 maggio di 1000 anni fa. Invece Talete è stato il primo uomo, la prima creatura umana, che ha avuto il coraggio di dire basta, basta di far finta di raccontare in forma poetica le origini del mondo o di ricondurre la molteplicità del reale al mistero insondabile del caos. Basta con i miti, con le superstizioni, con gli dèi. Gli dèi li abbiamo creati noi perché eravamo troppo soli dinanzi al mistero della morte. Basta. A partire da oggi dobbiamo cominciare a ricercare un principio razionale interno a Madre Natura stessa, causa del suo divenire. A partire da oggi, disse Talete 1000 anni fa, dobbiamo usare la ragione, la nostra ragione, per cercare di capire come va la vita, il mondo, la morte, per comprendere i misteri della natura. Disse che era stupido offrire oro a una statua di bronzo per guarire da una malattia, occorreva studiare il corpo umano per capire le cause e quindi trovare le medicine adatte. L'oro poteva far comodo solo ai sacerdoti e da allora un esercito di studiosi si è messo alla ricerca, liberamente, senza il permesso di alcun sacerdote, né elleno, né ebreo, né cristiano, senza un canone di fede, ma solo seguendo un canone di verità. La gente ascolta in religioso silenzio. I volti dei monaci e i parabolani vengono sferzati da un'ondata di rabbia malamente repressa. Gli enormi occhi di Cirillo non tradiscono emozione alcuna. Lo sguardo con cui fissa i pazzi è freddo, immobile. Sinesio morì per il dolore. perché non seppe risolvere questo conflitto interiore, si ammalò, soprattutto per questo, nonostante io avessi fatto di tutto per rasserenarlo, perché lui aveva avuto il coraggio di non accettare il canone di fede che gli era stato imposto, ma aveva salvato alcuni suoi principi e non si era fatto annullare. Lui aspirava alla libertà di pensiero e di azione e il dovere lo condizionò. Per noi resta un esempio e una speranza. Oggi più che mai abbiamo bisogno di altri 10, 100, 1000, Sinesio, perché per noi elleni si stanno preparando tempi ancora peggiori. A Costantinopoli è reggente la sorella maggiore di Teodosio II, Pulcheria, una ragazza di 15 anni che ha accettato integralmente il canone di fede cattolico. Agostino e Cirillo ne stanno facendo una loro creatura. Un riflesso di luce attraversa la foschia del tramonto ed è come se lambisse il volto di Ipazia. Prepariamoci a difendere il bene più prezioso che Madre Natura ci ha dato, la ragione. Prepariamoci a difenderla da chiunque pretenda di imporci un cammino diverso dal canone di verità per cui Sinesio ha lottato. Schiude le labbra, come se aspirasse aria di libertà. La prossima volta che ci incontreremo, voglio parlarvi dei miei ultimi studi e spero di riuscirci in modo semplice perché l'argomento è quanto mai interessante. La morte. Vivere con sofferenza e morire non è buono o cattivo, giusto o sbagliato o inevitabile, come ripetono in modo incessante vescovi e imperatori. No, è soltanto e semplicemente inutile. Ma è proprio sicuro che dobbiamo morire comunque e sempre? Ecco. Amici miei, un giorno io ho cominciato a mettere in discussione l'inevitabilità della morte. E da quel giorno, oltre ai numeri, all'astronomia, alla medicina e alla musica, mi sto dedicando anche a questo progetto, sconfiggere la morte. Penso che dobbiamo provare a mutare non soltanto il mondo che ci circonda, ma dobbiamo essere pronti a trasformare anche la nostra sensibilità, la nostra anima e la nostra mente, per rendere cosciente tutto quello che ancora non lo è. Dobbiamo provare a trasformare non soltanto noi stessi, ma ogni uomo, tutti gli uomini, compreso il vescovo Cirillo, che invece lotta affinché nulla muti, per continuare ad impossessarsi delle donazioni e delle eredità della povera gente, la quale, invece di andare da un medico, corre in chiesa a chiedere miracoli. E getta uno sguardo dolcissimo allungando una mano verso Cirillo. Se non ci riusciremo noi, altri ci proveranno e forse un giorno riusciranno. E qui, in questo stesso luogo in Via del Sole, si ricorderanno di noi, di quei loro antenati e antenate che hanno avuto il coraggio di pensare l'impensabile e ci onoreranno con il loro ricordo, come noi che oggi inviamo un pensiero di gratitudine a Talete e a Sinesio. E protende le mani in basso, sfiorando le dita della gente che le sta vicino, e mentre si dirige verso di me, uomini, donne e fanciulli le baciano il mantello in silenzio, in un'atmosfera carica di rispetto e di adorazione.